Avrei potuto mostrarvene uno bellissimo, riprese amabilmente Madame de Guermantes a proposito di Al. Anzi, il più bello, secondo alcuni, che ho ereditato da un cugino tedesco. Purtroppo è infeudato al castello. Non conoscevate questa espressione? Nemmeno io, aggiunse con quel suo vezzo di scherzare, credendosi in tal modo moderna, sulle antiche consuetudini alle quali, peraltro, era inconsciamente ferocemente attaccata. Sono contenta che abbiate visto i miei Elstir, ma confesso che lo sarei stata assai di più se avessi potuto farvi gli onori del mio Als, di quel quadro infeudato. Lo conosco, disse il principe Fong, e quello del granduca d'Assia. Appunto, suo fratello aveva sposato mia sorella, intervenne il signor di Guermantes. E d'altra parte sua madre era prima cugina della madre di Orian. Ma per quanto concerne il signore Elstir, aggiunse il principe, mi permetterei di dire, pur non avendo opinioni personali sulle sue opere che non conosco, che l'avversione dimostratagli dall'imperatore non deve essere considerata come una nota a suo sfavore. L'imperatore è un uomo di meravigliosa intelligenza. Sì, ho pranzato due volte con lui, una da mia zia Sagan, un'altra da mia zia Radziwill, e devo ammettere che mi è parso singolare, tutt'altro che semplice, direi, ma qualcosa di divertente, di ottenuto. La duchessa staccò dalle altre questa parola, come un garofano verde, cioè una cosa che mi sorprende e non mi piace del tutto. Mi sembra ammirevole che l'abbiano realizzata, ma non sarebbe poi un gran male se non ci fossero riusciti. Non vi sto scandalizzando, spero. L'imperatore è di un'intelligenza inaudita, riattaccò il principe Fong. Ama appassionatamente le arti, ha in fatto di opere d'arte un gusto in qualche modo infallibile, non si sbaglia mai. Se una cosa è bella la riconosce subito e si mette ad odiarla. Se detesta qualcosa non c'è il minimo dubbio, vuol dire che è eccellente. Tutti sorrisero. Mi rassicurate, disse la duchessa. Mi piace paragonare l'imperatore, riprese il principe, il quale, non sapendo pronunciare la parola archeologo, come cioè se fosse scritta cheologo, non perdeva occasione di servirsene, a un vecchio archeologo, e il principe disse arceologo di Berlino. Davanti agli antichi monumenti assiri, il vecchio arceologo piange. Ma se è qualcosa di moderno contraffatto, se non è veramente antico, egli non piange. Allora, quando si vuol sapere se un pezzo arceologico è realmente antico, lo si porta al vecchio arceologo. Se piange, si acquista il pezzo per il museo. Se i suoi occhi rimangono asciutti, lo si restituisce al mercante e lo si denuncia per falso. Ebbene, ogni volta che pranzo a Potsdam, tutti i pezzi di cui l'imperatore mi dice «Principe, bisogna che lo vediate, pieno di genialità», ne prendo nota per evitare di andarci. E quando invece lo sento tuonare contro una mostra, ci corro appena possibile. «È vero che Norpois è per un riavvicinamento anglo-francese?» chiese il signor di Guermantes. «E a che vi gioverebbe?» replicò in tono al tempo stesso irritato e scaltro il principe Fong, che non poteva soffrire gli inglesi. «Sono talmente stupidi! Lo so, non è dal punto di vista militare che potrebbero aiutarvi, ma è comunque possibile giudicarli in base alla stupidità dei loro generali. Un mio amico ha parlato di recente con Botha, sapete, il capo boero. Gli ha detto, è pazzesco, un esercito come quello. Fra l'altro, per gli inglesi ho una certa simpatia. Ma vi rendete conto che io, un semplice contatino, gliele ho suonate in tutte le battaglie? E all'ultima, mentre stavo soccombendo di fronte a un nemico 20 volte superiore per numero, pur arrendendomi, non avevo altra scelta, ho trovato il modo di fare 2000 prigionieri. È andata così perché ero un semplice capo di contatini, ma se mai quegli imbecilli dovessero misurarsi con un vero esercito europeo, c'è da tremare per loro al pensiero di quel che potrebbe succedere. Del resto, basta vedere come il loro re, che voi conoscete come lo conosco io, in Inghilterra passi per un grand'uomo. Queste storie, dello stesso genere di quelle che il signor di Norpois raccontava a mio padre, le ascoltavo appena. Esse non fornivano alcun alimento alle mie predilette fantasticherie. E, d'altronde, se anche avessero posseduto le qualità di cui erano prive, queste avrebbero dovuto essere ben eccitanti per risvegliare la mia vita interiore in quelle ore mondane durante le quali, confinato nella mia epidermide, nei miei capelli ben pettinati, nello sparato della mia camicia, non potevo provare nulla di ciò che era per me, nella vita, il piacere. «Ah, non sono d'accordo con voi», disse Madame de Guermantes, alla quale sembrava che il principe tedesco mancasse di tatto. «Trovo re Edoardo incantevole, talmente semplice e molto più fine di quanto non si creda. E la regina è ancora oggi quel che di più bello io conosca al mondo». «Ma, signora duchessa», si irritò il principe, non capendo che così si rendeva sgradevole. «Resta il fatto che se il principe di Galles fosse stato un semplice privato, non c'è un solo circolo che non l'avrebbe espulso e nessuno avrebbe consentito a stringergli la mano. La regina è affascinante, straordinariamente buona e mediocre, ma insomma c'è qualcosa di scandaloso in questa coppia reale che si fa letteralmente mantenere dai suoi sudditi, che si fa pagare dai grossi finanzieri ebrei tutte le spese che dovrebbero essere sostenute dal re e in cambio li nomina baronetti. È come il principe di Bulgaria. È nostro cugino», lo interruppe la duchessa, «ed è un uomo di spirito». «È cugino anche mio», replicò il principe, «ma non per questo pensiamo che sia profumo. No, è a noi che dovreste avvicinarvi. L'imperatore non desidera altro, ma vuole che venga dal cuore. Quello che voglio, dice, è una stretta di mano, non una scappellata. Allora sì che sareste invincibili. Sarebbe ben più pratico del riavvicinamento anglo-francese predicato dal signor di Norpois». «So che lo conoscete», mi disse la duchessa di Guermantes perché non rimanessi tagliato fuori dalla conversazione, ricordando che Norpois aveva detto che ero stato sul punto di baciargli la mano, pensando che avesse certamente raccontato quella storia a Madame de Guermantes e in ogni caso non le avesse potuto parlare di me che con cattiveria, poiché non aveva esitato, malgrado la sua amicizia per mio padre, a rendermi tanto ridicolo. Mi comportai ben diversamente da come avrebbe agito un uomo di mondo. Questi avrebbe detto che detestava Norpois e gliel'aveva fatto capire. L'avrebbe detto per apparire come la causa volontaria delle maldicenze dell'ambasciatore, che sarebbero sembrate, così, semplici rappresaglie interessate e menzogniere. Io dissi invece che ero convinto, con mio sommo dispiacere, di non essere ben voluto dal signor di Norpois. «Vi sbagliate», mi garantì Madame de Guermantes. «Gli piacete molto. Potete chiederlo a Bazin. Se io passo per essere troppo gentile, lui certo non lo è. Vi dirà che non abbiamo mai sentito Norpois parlare di qualcuno in modo tanto lusinghiero. E recentemente avrebbe voluto farvi assegnare al ministero un impiego invidiabile, ma saputo che non stavate bene e non avreste potuto accettarlo, ha avuto la delicatezza di non parlare nemmeno della sua buona intenzione a vostro padre, che stima immensamente». Norpois era l'ultima persona al mondo dalla quale mi sarei aspettato un favore. La verità è che, trattandosi di un carattere beffardo e anche piuttosto maligno, chi si era lasciato ingannare, come me, dalle sue apparenze di San Luigi che amministra la giustizia sotto una quercia, dai toni di voce facilmente impietositi che uscivano dalla sua bocca un po' troppo armoniosa, credeva poi a una vera e propria perfidia, quando si scopriva oggetto di una maldicenza proveniente da un uomo le cui parole gli avevano dato l'impressione di sgorgare dal cuore. Maldicenze siffatte erano, da parte sua, abbastanza frequenti, ma questo non gli impediva di nutrire simpatie, di lodare coloro che gliele ispiravano e di provare piacere mostrandosi servizievole nei loro confronti. «Del resto», continuò Madame de Guermantes, «non mi stupisce che vi apprezzi. È intelligente e capisco benissimo», aggiunse a beneficio degli altri, alludendo a un progetto di matrimonio di cui non sapevo nulla, «che mia zia, che già non lo diverte molto come vecchia amante, gli sembrasse inutile come nuova moglie, tanto più che amante, almeno credo, non lo è più da tempo, ormai ha rapporti, se posso esprimermi così, solo col buon Dio, è più bigotta di quanto non pensiate, e bon urpois potrebbe dire, come nei versi di Victor Hugo, «Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, au Seigneur a quitté ma couche pour la vôtre». Mia zia è davvero, poverina, come quegli artisti d'avanguardia che hanno sparlato per tutta la vita dell'Accademia e finiscono sul tardi col fondare una piccola accademia personale, o gli spretati che si rifanno una religione tutta loro. Tanto valeva allora tenersi la tonaca o non fare coppia, a meno che, aggiunse la duchessa con aria meditabonda, non si è in previsione della vedovanza. Non c'è niente di più triste dei lutti che non si possono portare. Ah, se Madame de Villeparisis diventasse Madame de Norpois, scommetto che il cugino Gilbert ne farebbe una malattia, disse il generale di Saint-Joseph. Il principe di Guermantes è una persona deliziosa, ma è in effetti molto attaccato alle questioni di nascita e di etichetta, osservò la principessa di Parma. Ho passato 2 giorni a casa sua in campagna mentre, sfortunatamente, la principessa era malata. Mi accompagnava Piccina. Era il soprannome affibbiato a Madame Dunolstein perché era enorme. Il principe è venuto ad aspettarmi ai piedi dello scalone, m'ha offerto il braccio e ha fatto finta di non vedere Piccina. Siamo saliti al primo piano fino all'ingresso dei salotti e a quel punto, mentre mi cedeva il passo, ha detto «Ah, buongiorno, Madame Dunolstein», la chiama sempre così da quando si è separata, fingendo di vedere soltanto allora Piccina per mettere in chiaro che non le aspettava essere salutata a pian terreno. «Non mi stupisce affatto, non c'è bisogno che vi dica», commentò il duca, il quale si riteneva estremamente moderno, superiore più di chiunque altro a questioni di nascita e persino repubblicano, «che non ho molte idee in comune con mio cugino. Su qualunque argomento vostra altezza può figurarselo, andiamo d'accordo più o meno come il giorno e la notte. Ma devo convenire che se mia zia sposasse Norpois, per una volta sarei solidale con Gilbert. Essere la figlia di Florimond de Guise e fare un matrimonio simile sarebbe, come si dice, una cosa da far ridere i polli. Che volete che vi dica?» Queste ultime parole, che il duca pronunciava di solito all'interno di una frase, erano nella fattispecie assolutamente inutili, ma egli aveva un perenne bisogno di usarle, tanto da farle slittare alla fine di un periodo se non era riuscito a collocarle altrove. Era per lui, fra l'altro, come una questione di metrica. «E notate», aggiunse, «che Norpois sono gentiluomini valorosi, di buona estrazione, di buon ceppo». «State a sentire, Bazin, non vale la pena di sbeffeggiare Gilbert per poi parlare come lui», disse Madame de Guermantes, per la quale la bontà di una nascita, non diversamente da quella di un vino, consisteva precisamente, come per il principe e per il duca di Guermantes, nella sua antichità. Ma meno schietta del cugino e più sottile del marito, stava attenta, conversando, a non smentire lo spirito de Guermantes e disprezzava il sangue a parole, salvo poi onorarlo nei fatti. «Ma non siete persino un po' cugini?» chiese il generale di Saint-Joseph. «Mi sembra che Norpois avesse sposato la Rochefoucauld». «Non esattamente. Lei apparteneva al ramo dei duchi di La Rochefoucauld, mia nonna era dei duchi di Doudenville. Risulta poi la nonna di Edouard Cocot, l'uomo più saggio della famiglia, precisò il duca, che aveva sulla saggezza nozioni un po' superficiali. I due rami non si sono più riuniti dai tempi di Luigi XIV. Insomma, è un po' alla lontana. Toh, interessante, non lo sapevo, disse il generale. D'altra parte, riprese il signor di Guermantes, sua madre era, se non sbaglio, sorella del duca di Montmorency e aveva sposato in prime nozze una Latour d'Auvergne. Ma poiché quei Montmorency sono Montmorency per modo di dire e quella Tour d'Auvergne non sono affatto la Tour d'Auvergne, non mi sembra che gliene derivi una gran posizione. Lui sostiene sarebbe più importante di discendere da Saint-Treuil e poiché noi ne discendiamo in linea diretta,